Il pensiero musicale contemporaneo tra presente e memoria. Incontri con i compositori del nostro tempo, di Emanuele Pappalardo. Un vecchio maestro di Narni, dove io sono nato, cercò voci bianche per il coro, che peraltro era un coro nutritissimo. Scelse alcuni di noi, bambini, che andavano a fare le prove addirittura prima di andare alla scuola, parlo della scuola elementare, quindi forse a 9-10 anni. Non credo che questo comunque sia stato determinante, l'aver cantato per tanti anni come fanciullo. Però insieme a questo ricordo una cosa molto simpatica parallelamente. Ricordo che quando noi bambini, io avevo 5 fratelli e sorelle, quando noi bambini si faceva troppa confusione in casa, mia madre mi parlava, ci intimava il silenzio perché papà ascoltava l'opera per radio, e allora Rigoletto, Don Trovatore, erano titoli, erano musiche, suoni che ci arrivavano, che certo in qualche modo hanno circondato un po' la mia infanzia. Queste dunque le prime timide frequentazioni musicali dell'oggi 64enne Mauro Bortolotti. Seguono quindi gli studi regolari a Roma con Rodolfo Caporali per il pianoforte, Germani per l'organo e Ferdinandi per la composizione, e negli ultimi anni del corso di composizione con Goffredo Petrassi. Ed è dalla importanza che ha avuto allora per il giovane apprendista Bortolotti l'essere vicino ad un personaggio di tale spessore artistico e umano che inizia questo nostro incontro. Fu importante per ragioni varie, anche di natura psicologica. Per noi Petrassi, per noi voglio dire anche i miei amici di quegli anni, Guaccero e Porena e Clementi e tanti altri, per noi Petrassi rappresentava certo una sorta di un personaggio certamente di grande, grande rilievo. Il suo nome già era notissimo, e quindi essere nella sua classe rappresentò certo uno stimolo grosso, e certo l'essere stato con lui, seguire i suoi corsi, le sue indicazioni, le sue correzioni, anche i discorsi su mille cose che si facevano sull'ultimo libro, sulla pittura, che frequentavamo con una certa regolarità, a volte anche con lui. Tutte queste cose indubbiamente giocarono per un allargamento globale del fatto culturale, che non fu quindi semplicemente di carattere musicale, come non può esserlo mai. Subito dopo il diploma chiedemmo alla RAI di poter stare qualche giorno a Milano, io e Guaccero, io e l'amico, il caro amico Guaccero, ora da anni scomparso. Chiedemmo di poter dunque sapere, vedere, toccare con mano quanto andava accadendo allo studio di fonologia di Milano. Ci venne accordato il permesso e restammo alcuni giorni su a Milano. Passavamo le nostre giornate con Berio e con Maderna, i quali con molta cordialità rispondevano alle nostre domande e ci facevano vedere come si lavorava. Ma dopo questo, un'esperienza utilissima, ci fu Darmstadt, un'altra esperienza molto molto importante. Darmstadt, di cui oggi si parla molto e di cui si può ancora parlare cercando di capire la importanza di questo centro internazionale, i famosi Ferienkurse für Neue Musik. E Darmstadt fu un momento forse ancora più importante. Venimmo a contatto con tutto quanto accadeva non solo in Europa, ma anche in America, anche in Giappone. I corsi di Darmstadt allora avevano come insegnanti, come docenti, nomi quali Adorno, Stockhausen, Boulez, Pusser, Cage, naturalmente gli americani, ed anche i giapponesi. Venivano eseguite musiche di tutti, assolutamente di tutti, e questo è un riconoscimento che a Darmstadt va dato. Subito dopo la guerra, nel 1957, nostro primo viaggio anche qui in compagnia degli amici romani, che ho già citati, per noi fu decisamente un ulteriore allargamento. Ci fu, devo dire, anche una grossa crisi inizialmente, perché noi che avevamo studiato sui sacri testi ci trovammo tutto stravolto, certamente l'elettronica, la rumoristica, l'improvvisazione, le macchine al servizio dell'uomo. Fu inizialmente uno shock, ma io credo che, almeno per quanto mi riguarda, fu decisamente positivo. Ma perché? In Europa, e non solo in Europa, come ho già detto, stavano accadendo ricerche particolari sulla musica, ricerche particolari sul suono, una ricerca puntigliosa, non più sul problema delle forme, non più sul problema dell'orchestrazione, non più sul problema dell'usare i 12 semitoni, non più e non solo su questi problemi, ma su uno importantissimo: la ricerca sul suono, inteso come entità fisica, come entità acustica. Stavano venendo fuori macchine, c'erano già macchine raffinatissime che analizzavano gli spettri armonici, che operavano proprio all'interno del suono, che per noi era una cosa scontata. Ma avvenivano anche analisi approfondite su tutti gli aspetti del suono, non solo sulle composizioni dodecafoniche, sul loro intrecciarsi delle serie. Era un penetrare in altro modo all'interno dei fatti sonori, dei fatti formali, dei fatti costruttivi. Ma come si poteva scrivere musica o poetare o dipingere senza conoscere, senza confrontarsi? Quindi per me questo confronto fu una cosa essenziale. Giovanissimi come eravamo, convinti tra l'altro di possedere il bagaglio, quel grosso bagaglio, quel grosso corpus di nozioni, e pensavamo che di stare tranquilli entro una torre d'avorio, invece vedemmo che le cose si erano totalmente trasformate. Subito dopo Darmstadt, al ritorno, devo dire che vi fu un'esecuzione, una prima esecuzione delle poesie di Éluard. Le poesie di Paul Éluard erano state composte in quegli anni, nel 58-59, erano state scritte per voce, clarinetto e violoncello. Devo anche dire che non musicai i testi interi come ho fatto poi spesso fino ad oggi, ma trattandosi di poesie di una certa lunghezza, in verità io musicai degli estratti che ritenevo, feci una scelta dei versi più interessanti e quelli musicai. Circa la loro, il linguaggio usato, la tecnica compositiva usata, ecco, devo dire che ancora Darmstadt non c'entra affatto, non si sente, o se si sente in verità è perché tentai di usare un linguaggio essenzialissimo, ecco, suoni isolati, direi tenendo presente magari Webern, la sua lezione di estrema pulizia, di estremo controllo del suono. Erano due delle quattro poesie di Luard, lavoro che Mauro Bortolotti scrive nel 1959, originariamente per voce, clarinetto e violoncello, e che abbiamo ascoltato in una recente versione per voce, flauto, chitarra, violino e pianoforte. Seguono quindi negli anni 60 molte altre composizioni, per lo più cameristiche e per i più svariati organici. Ma il clima sociale e politico, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 60, non manca di suscitare una serie di riverberazioni nel pensiero artistico di quegli anni, tematiche, urgenze che la maggior parte degli artisti hanno fatto proprie e alle quali hanno dato una soggettiva concretizzazione. Ma come viveva l'allora quarantenne Bortolotti queste urgenze espressive legate alla necessità di rendere partecipe la propria musica a quanto stava accadendo? Le cose andavano in una certa direzione, occorreva non seguirle senza dire una parola. Sono anni quindi di protesta. Ma la protesta non è che nasca in quegli anni o che nasca soltanto in Italia. Secondo me un musicista come Cage, che ebbe l'opportunità di conoscere a Darmstadt in quegli anni, che poi è accaduto di rivedere anche a Roma durante le sue frequentazioni romane con il balletto di Kannicke, eccetera. Beh, tutta la produzione di Cage, secondo me, ha un fondo di protesta, che se ne voglia dire. Apparentemente sembra giocata tutta sull'ironia. Io la vedo giocata sulla cattiveria, sulla violenta protesta. Io ricordo di fronte a quanto andava accadendo, sentì il bisogno di scrivere un qualcosa che appartenesse a quegli anni e che mettesse in luce la mia carica di protesta, protestataria. E scrissi il Contri, che è un lavoro per voce e cinque strumenti. Un lavoro dunque nato nel 65 che non ha un testo ben definito. Fui io a scegliere parole che mi interessavano, come guerre, come contre, appunto, contro la guerra, contro la mafia. Fu insomma una protesta, se vogliamo, anche generica, ma certo sentita su questo Io almeno personalmente non ho dubbi, i risultati poi sono un'altra cosa. Comunque, citazioni dai Promessi Sposi, ad esempio, il senso della solitudine, e tante parole che dovevano aiutarmi a dire la mia parola su quegli anni. Naturalmente la voce poi ha una sua violenza sonora, anche per la voce si ricercano effetti come battere la mano, far vibrare la mano davanti alla bocca, usare frullati, per così dire, i flutters. E così tante altre glissati continui, una scrittura molto aperta, piena di distorsioni per tutti gli strumenti. E questa parola contro, questa parola che circola per tutto il testo. Thank you. fin dagli anni del conservatorio, ma anche molto prima, brevi, non dimenticate liriche da Wright, Sinisgalli o Whitman, la scelta del testo da musicare, minuziosa, rileggendo decine di poesie, felice di approfondire contatti con poeti che già in partenza mi interessavano, costituiva motivo di scavo puntiglioso. Dovevo assolutamente capire lo spirito del testo, penetrare all'interno del clima espressivo che la poesia riusciva a creare, per poi partire verso soluzioni che nel corso degli anni sono state le più varie e hanno sottolineato sviluppi e aperture culturali, crisi o impegni sociali. Inutile dire che del testo non mi sono mai preoccupato di rendere il suono o l'elemento semantico più esplicito, né mi sono posto dei problemi circa la comprensibilità immediata del testo cantato, che è tutt'altra cosa dal testo letto o recitato, la cui comunicabilità avviene per vie ben diverse. Mi sono preoccupato invece della tensione generale e del modo più adeguato di renderla nella sua totalità, arrivando anche in molti lavori a frantumare la parola nelle sue componenti fino a sfruttare i singoli fonemi e usando tutta la gamma di possibilità dell'organo vocale, unendolo a strumenti o al nastro magnetico. Poeti diversissimi mi hanno interessato, per ragioni anche contrastanti, da Éluard a Scotellaro, Cummings, Berryman recentemente e Alfredo Giuliani. Giuliani che scrive cose che possono valere bene anche per il musicista. Ormai il disagio e la confusione si sono insinuati tra i criteri di lettura. Il mondo scappa da tutte le parti e volerlo fissare in una qualche forma dà per lo più risultati meschini. Insieme a lui si è discusso a lungo sui possibili rapporti fra testo e musica oggi. Così scriveva alla fine degli anni 70 Mauro Bortolotti a proposito dei rapporti tra testo e musica. Pochi e chiari concetti che abbiamo fatto seguire all'ascolto di un estratto da Contre, vocalizzo per soprano e cinque strumenti del 1965. Ed è negli anni 60 che si concretizza il progetto per la creazione di Nuova Consonanza, associazione musicale ancora oggi in piena attività, un progetto che vede impegnato insieme ad altri compositori Mauro Bortolotti come uno dei soci fondatori. Insieme a Franco Evangelisti, insieme a Guaccero, Macchi e tanti altri amici, intorno agli anni 60, addirittura forse già prima nel 58-59, demmo vita a una associazione, in un primo tempo direi quasi allo stato catacombale, se si può dire, fu un incontri così nei luoghi più disparati, o nelle case, eccetera, per decidere cosa fare e come farlo e dove trovare i fondi. Poi poco a poco venimmo fuori grazie anche all'aiuto di associazioni che non ci negarono i loro piccoli contributi, che non ci negarono un luogo dove fare questi primi concerti. Nuova Consonanza dunque nacque per il bisogno di farci conoscere, per il bisogno di confrontarci o di farci confrontare con altre realtà. Certo, le istituzioni grandi, che basavano la loro vita sul certo, ecco, quindi anche sulla mondanità, anche su un nome di sicura garanzia, malvolentieri avrebbero accettato quantomeno le nostre partiture. Quindi occorreva un'azione decisa e autonoma. Poi ci furono altre questioni, più di natura estetica, ideologica, eccetera. Ma prima di ogni altra cosa, a mio modo di vedere, fu questa volontà di far noi la musica. Oltre al gran numero di composizioni per strumenti tradizionali, il catalogo delle opere di Mauro Bortolotti presenta alcuni lavori che prevedono l'utilizzazione del nastro magnetico. Ma ascoltiamo dallo stesso Bortolotti come e quando nasce l'interesse per il suono sintetico. Verso la fine degli anni 60, nel 69, preciso 68-69, ebbi una quantità di contatti con Pietro Grossi, il suo studio di fonologia fiorentino. Fu un periodo fecondo, un periodo in cui si approfondirono, come d'altra parte ho già accennato per Darmstadt, in cui si approfondirono i contatti con il suono come entità fisica. Venne fuori uno studio 1 per nastro magnetico, che tra l'altro più volte è stato eseguito e devo dire è stato anche danzato dai danzatori scalzi, dalla coreografa e ballerina Patrizia Cerroni. A questo lavoro ne seguì un altro, ancora approfondendo le ricerche sulla musica elettronica e addirittura lavorando anche col calcolatore. Questa volta Grossi, non più Firenze aveva come centro dei suoi studi, ma l'Università di Pisa, il CNUSE dell'Università di Pisa, dove aveva a sua disposizione i calcolatori, alcuni di una complessità notevole per quel tempo, per quegli anni, era il 70-71. Ma la mia esperienza elettronica non si concluse con questo lavoro, tanto che nell'84, insieme all'amico Walter Branchi, facemmo un lavoro complesso di circa 40 minuti per sonorizzare una mostra, un'ampia mostra sul luogo del lavoro, ovvero sia sul lavoro dell'uomo dalle presunte origini fino alla tecnologia più perfezionata. Impiegammo apparecchiature elettroniche, impiegammo musica anche concreta, inserimmo brani in qualche modo preesistenti, inserimmo la voce umana e attraverso messaggi molto molto complessi, i cui risultati, almeno per quanto riguarda la richiesta che ci venne fatta, furono veramente notevoli. Era un breve estratto da Paesaggi intravisti, un lavoro che Bortolotti realizza in collaborazione con Walter Branchi nel 1984, a distanza di 13 anni dall'ultima esperienza elettronica che datava 1971, un mottetto per voce e computer. Ed è dell'anno seguente, il 1972, la composizione di un lavoro esclusivamente strumentale per soli archi, dal titolo «E tuttavia», che rappresenta un momento essenziale nell'attività del compositore. Beh, mi sembra che con E tuttavia si sia operata una svolta in qualche modo. Non che venga a mancare l'impegno, che è una costante della mia personalità, è un'esigenza che io non posso, annullare mai. Ma si fa più critica, si fa... perde forse in polemica, se vogliamo. Rispetto al contro, certo, il salto è di qualità e si sente. La protesta c'è ancora, c'è la volontà, il piacere, il desiderio di poter modificare in qualche modo la realtà, la realtà che non ci piace, ma c'è anche la consapevolezza delle difficoltà di modificare questa realtà. In verità l'artista ha una funzione per quanto riguarda la capacità di incidere a fondo molto molto modesta. Vengono poi altri lavori, molti altri lavori per chitarra, ad esempio una serenata del 79, un preludio a Berryman per quartetto d'archi, ancora l'attesa, il professor P per voce e nastro, quindi ritorna il nastro che apparirà poi dopo ancora in un lavoro più ampio. E poi altri poeti, altri testi che mi hanno interessato, come sempre, due poesie di Pasolini per baritono e pianoforte. Poi un recitativo a Pasolini di Sanguinetti per strumenti e voce. Ho citato vari poeti perché il mio interesse per loro è sempre stato, come ho già detto, è sempre stato notevolissimo. Io credo che la lettura di certe poesie di Giuliani, di Porta, di Sanguinetti abbiano avuto anche questo compito di indicare alcune strade, di indicare che la frase ripetuta, che il concetto bloccato in qualche modo mi abbia dato anche la possibilità di scrivere le tuttavia. Su E tuttavia c'è questa situazione di attesa, potremmo quasi dire, vedete, che si realizza soltanto negli accordi finali violenti, che dovrebbero addirittura avere delle amplificazioni. Certo, ci sono molti minuti di immobilità, è una composizione basata su piccole fasce che si alternano e probabilmente l'indicazione mi può essere venuta da un quadro, mi potrebbe essere venuta benissimo da una poesia. E tuttavia è titolo aperto, che vuole indicare in un momento di riflessioni, forse non solo personali, che il lavoro può essere e può anche non essere un compromesso, che che porta avanti un discorso o indica un discorso congelato, impossibile, e da tutt'altra angolazione che contiene informazioni fatiche per un tentativo di contatto tra più interlocutori o che per la sua ridondanza, con la sua insistenza, mette in crisi il sistema di attese. A rose is a rose is a rose is a rose, generando utili interrogativi. E ancora può indicare che è finito e tuttavia inservibile perché, come osserva Moles citando Oscar Wilde, la poesia non può fare il lavoro di una scavatrice, oppure che serve perché, come grida Henri Michaud, si può costruire una città con degli stracci. Così si conclude E tuttavia, concatenazione per archi, del 1972 di Mauro Bortolotti, che abbiamo fatto precedere da alcune note di pugno dello stesso autore. Nel 1981 Bortolotti si accosta al teatro musicale con Letturazione, un'azione mimico-teatrale su testi di Barry Mann, e Letturazione rappresenta tutt'oggi l'unica esperienza in tale campo. Naturalmente l'interesse per i testi che a partire da Éluard fino ad oggi sono stati una delle costanti del mio fare musica, non poteva non arrivare a questa conclusione. Letturazione, come è stato detto, è dell'81. Nell'84 scrivo una musica per una scena per trio d'archi, e sempre nello stesso 84 scrivo una scena terza e recitativo per basso e quartetto d'archi. Quindi questa presenza del fatto teatrale, di un'azione che è più o meno esplicita, esiste nella mia musica, così come esisteva in altri lavori precedenti, in cui magari gli esecutori dovevano muoversi, dovevano spostarsi di polo, ma insomma era una tecnica in qualche modo abbastanza diffusa negli anni anche 60-70. Lo scrivere musica prevedendo attori, cantanti, lettori, danzatori, eccetera, eccetera, e fa sì che si muti in qualche modo il tuo rapporto con la musica. Non è più musica assoluta, come sappiamo, vecchio problema, quello del rapporto teatro, azione, movimento, eccetera, e musica, muta e deve tener conto di una quantità di fattori che entrano in ballo e che creano un'operazione complessa. Tra l'altro nel caso di Letturazione intervenne anche la luce con i soggiochi che contribuiscono a dare qualcosa di totale. Il nostro incontro con Mauro Bortolotti volge al termine, ma non possiamo concludere prima di aver preso in esame, anche se sinteticamente, la produzione musicale più recente, quella degli anni 80. Attraverso una valutazione più generale di quanto è accaduto nella esperienza musicale di quest'ultimo decennio. C'è stato in verità una sorta di recupero dell'espressività. Si è rifiutato anche per una certa stanchezza, anche perché molto era stato, molto si era indagato sul suono, c'è stato un recupero veramente di una sorta di espressività, di una sorta di cantabilità. Si è in qualche modo riscoperto il canto, anche se con un gioco di ironie, con la consapevolezza di fare un'operazione in fondo falsa, non autentica, perché autentica non poteva essere, autentico sembrerebbe ormai essere impossibile fare alcunché, ecco, sembra impossibile operare sull'autenticità più viva. Comunque c'è stato questo rivedere un po' tutto, rivedere dentro, fare i conti in qualche modo. Alcuni miei lavori, come l'omaggio all'India per 9 strumenti dell'89, un recitativo obbligato per clarinetto e 5 archi, addirittura un ragtime più o meno di qualche anno prima, stanno a indicare in qualche modo che si è operata una trasformazione. Una trasformazione quindi che è forse possibile sintetizzare come una sorta di pacificazione che trovi un suo equilibrio nel suono, in una ricerca timbrica, in una cantabilità che perde in parte la sua portata drammatica. Caratteristiche quindi proprie della musica di Mauro Bortolotti di questi ultimi anni. E concludiamo questo nostro incontro con l'ascolto di Grandes Mysterios Habitam, un lavoro cameristico del 1990, il cui titolo prende spunto da un verso di Pessoa. Thank you.